Sore. Attenzione, Gian Maria. Gian Maria. Caspita Gian Maria, buonasera. Buonasera a tutti. E mi hai intaffolato, sono adesso. Ti adatte? Ebbene, cosa ci racconti oggi? Tu pensa rimani da oggi intaffolato? Intaffolato e in casa. Ci sono bene che devo farle prima di tutto. Infatti, bisogna farlo un giro davvero. Hai fatto bene. Anche quello volevo fare. Fatto, ci penso io. Hai fatto. Io ci devo andare il 19 gennaio, quindi a fare questo controllo, quindi ci vanno ancora bene gli occhiali. L'oculista lo fa nel contratto e se vanno ancora bene, perciò devo cambiare lì. È buono quello. È buono, sì, ah no, sei vicino e tutto. Infatti, è meglio, almeno così vedi più bene con gli occhiali. Sì, infatti, da lontano non ci vedi bene, no? Sì, perché dall'anno a anno cambia. E sicuramente vedevi sdoppiato, vedi, lontano. Ma guarda che io l'ultima volta che ho fatto il controllo con la patente manco usato i raggi di PC. Ma l'ultima volta che ho fatto la visita per la patente non ne ho avuto bisogno, però era a 2 metri, quindi ha voglia di vivere. Adesso non lo so, alla prossima visita come sarà, però gli occhiali con queste qua che faccio la visita per vedere se vanno bene, ancora me li uso. Infatti a me oltre lontano e vicino sono fatto fare cromatiche anche, che al sole si oscurano. E come ho fatto io, infatti ho preso quello lì, che ha fatto vedere come difendono al sole, capito? E quello lì ho preso, da lontano da vicino, più quelli che sta cambiando. Infatti, così, almeno così c'è tranquillo e tutto. Io ce li ho così, ce li ho. Li uso per guidare e anche per leggere e vedere da vicino. E tutto. E più si fanno scure. Solo che si fanno scure, però non mi bastano a me. Infatti gli ho aggiunto altre lenti scure. No, ma non so più nulla con marito. So solo che ne uscirà in questi giorni. E ha finito di fare le visite e tutto quanto. Ha detto la moglie. No, non è che non so più altro. Sì, a Marino l'ho sentito, ma non sa nulla neanche lui. Ieri l'ho sentito, quando era al telefono ieri, ma l'ha detto e però mi ha detto, dice no, non so nulla, quanto ne sei tu ne so io. No, so che deve essere impegnato, ma detto, se non sono impegnato, se vedi che non entro vuol dire che sono impegnato. Ok Gianmarì, ci risentiamo domani. Ok, ciao Gianmarì.